Bentornati in diretta su Radio Forte, da Forte Prenestino, CSOA Forte Prenestino, a Roma ovviamente. E questa è Boca Chica Cosmodrome, la trasmissione che si occupa dell'espansione del capitale, del neoliberismo nello spazio. E questa è la nostra sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. La nave op, la cama du tiem, lo dirti, nemo dirti. Dirti, dirti. Seconda stagione per Boca Chica Cosmodrome, tra l'altro sul tanto vituperato accento di cui parliamo spesso. Stasera torneremo, vero Bimo? Esatto, oggi e qui di questioni di accenti ne abbiamo almeno anche un'altra, ma ne parliamo dopo. Bene, allora vi ricordiamo che siamo a Radio Forte, siamo nel centro sociale occupato, autogestito di Forte Prenestino di Roma, e questa è Boca Chica Cosmodrome, ovvero la trasmissione che si occupa di espansione del capitale, del neoliberismo nello spazio. Forse siamo l'unica trasmissione radiofonica che si occupa di una cosa così, che dice Bimo? Guarda, sì, penso di sì. Oggi daremo notizia di un podcast che però è ormai antichissimo, nel 2018, che si occupava di temi simili in inglese, però da questo punto loro sono scomparsi, quindi sì, siamo rimasti solo noi. Allora, ricordiamo che trovate tutte le informazioni su Boca Chica Cosmodrome nella parte del sito di Forte Prenestino, forteprenestino.net, in cui scavando troverete anche i podcast, e troverete soprattutto quella che è stata la prima serie di Boca Chica Cosmodrome. Bimo, una serie che ci rivendichiamo anche perché è molto più accademica e molto più profonda di questa, che è un po' bighellonante, volutamente un po' più bighellonante, po' più leggera, che non è nelle nostre corde, ma ci siamo sforzati da questo punto di vista. Comunque la prima serie è propedeutica. Sì, vi ricordiamo anche che abbiamo un magnifico Telegram da cui raccogliamo le domande, anzi salutiamo tutti i partecipanti a Telegram. Io personalmente mi scuso con Francesco, che ci ha chiesto una bibliografia, è una cosa interessante da mettere sul nostro Telegram. Lo faccio questa settimana, non ho avuto tempo, ma raccogliamo la bibliografia necessaria un po' per seguire in maniera più approfondita quelli che sono i temi. Ora, noi non abbiamo un tema a puntata specifico, troppo specifico, a differenza delle puntate andate in... Prossima stagione lo avremo, ma in questa no. No, in questa no, in questa, come dicevo, siamo più girovaghi da questo punto di vista. Però una cosa fissa ce l'abbiamo, che è un brano 45 giri, e in questo caso si tratta, se non sbaglio, di Lunik. Ottobre, sono le ore 15. Per ottenere buone immagini della Luna occorre avere il Sole alle spalle, ed è quello che gli strumenti di bordo stanno ordinando. C'è un rischio. L'obiettivo automatico di Lunik potrebbe confondere la Luna con la Terra. Ma è un rischio previsto. La sua traiettoria è stata calcolata in modo da escludere la Terra dal campo visivo degli obiettivi. Ora il sistema ottico dà segnale di presenza della Luna. Significa prepararsi all'inquadratura. Sono le 15:16. Da Terra arriva poco dopo un impulso elettronico. Scattate. Per 40 minuti il reporter cosmico fissa su negativo immagini inedite per l'uomo. Poi cominciano le operazioni automatiche di sviluppo e stampa. Il Lunik intanto si sta riavvicinando alla Terra. Il 18 ottobre un segnale aziona il trasmettitore per l'invio a Terra delle immagini. Il 26 ottobre la Luna è sulle prime pagine di tutti i giornali. L'antica mappa di Galilei, comparsa nel Sidereus Nuncius del 1610, si arricchisce di nomi nuovi. La baia degli astronauti, i monti dei Soviet, il mare del sogno. Un mare, scrive la Pravda, che da questo momento attende la caravella del primo colombo delle stelle. Mentre il Lunik III, esaurita la sua missione, sta avvicinandosi alla Terra, da Cape Canaveral, un Juno II a 4 stadi mette in orbita l'Explorer VII. Le radio di bordo trasmettono nitidamente misure dell'irraggiamento termico del Sole. Per la prima volta viene osservata la collisione con un meteorite. Ascolterete ora la voce dell'Explorer VII. Proviene da quota 554 chilometri. Con due Discoverer, il settimo e l'ottavo della serie, i tecnici americani continuano le operazioni di messa a punto dei congegni di espulsione e recupero di una capsula con caratteristiche sconosciute. Ma bisognerà arrivare al Discoverer 13° perché l'esperimento riesca. Il Pioneer V inaugura il 1960, anno terzo dell'era spaziale. Andrà a raggiungere il Pioneer IV, in orbita ormai da un anno intorno al Sole. Nel suo viaggio compie rilevamenti tra la Terra e Venere. La trasmittente della sonda stabilisce il primato di radiocomunicazione. 32.209.000 chilometri. Ecco la voce di Pioneer V. La radio a galena è per la nostra generazione un ricordo recente. Ma storia e preistoria ormai si confondono nello spazio. Eccoci di nuovo a Bocca Chica Cosmodrome, non ce ne siamo mai andati, sempre da Forte Prenestino, centro sociale occupato autogestito a Roma e sempre da Radio Forte. Bimo, io non mi sono mai chiesto e non ho chiesto soprattutto nella nostra grande community Telegram se questi estratti 45 giri d'epoca, parlavamo degli anni 60, lo diceva anche lo speaker, voci bellissime tra l'altro. Birdo è incredibile. È fantastico. Prima o poi troveremo anche Missy. Secondo me, perché era un classico dell'epoca, che provengono da questa pubblicazione Mondadori degli anni 60-70, L'uomo e lo spazio, che sono dei 45 giri d'epoca che noi abbiamo sbobbinato e proponiamo un po' randomicamente, ma come suggestioni. Beh, sì, sono molto suggestivi. Beh, non lo so, ce lo diciamo noi. Esatto, viene da chiedersi se qualcuno se li sente. Questo mi chiedevo, esattamente, avere un feedback. Quindi vi sproniamo, voi ascoltatori, a darci un feedback su questi 45 giri, che sono un po' la novità di quest'anno e che sono anche il nostro tormentone. Non ci torneremo sopra più di tanto, insomma, l'abbiamo detto. Invece saltiamo di palo in frasca, io salterei a questo punto a pie pari. Ricorderei semplicemente, come dicevo prima, che esiste un sito, forteprenestino.net, dove troverete la slot di Bocca Chica Cosmodrome, all'interno le vecchie puntate della prima stagione, addirittura 11 puntate, e anche in crescendo, in progress, le puntate che stiamo collocando in questo momento, che sono quelle che state ascoltando, avete ascoltato nelle settimane precedenti. Bimo, questa è un'idea tua, questa di portare l'argomento di questa sera, di cui sviscereremo alcune cose, e che io introduco in una maniera un po' così, diciamo, tellurica, ma anche segreta, che è quella... Come una radio a galena. Sì, esatto, che per noi è un ricordo recente. Ma guarda, tellurica l'ho detto perché non sapevo cosa dire, la prima parola mi è venuta in mente, si è capito, non c'entrava assolutamente nulla. Allora, io direi solo questa cosa qui, il grande libro delle domande. Esatto, il grande libro delle domande e delle questioni, che è questo libro che si intitola Off Earth del 2023, che non ha una traduzione italiana, a quel che ho potuto vedere. Tra l'altro, perdonami, questo può rientrare, tra l'altro, forse anche in uno di quei libri che Francesco dalla community assolutamente, ci chiedeva. No? Assolutamente, adesso noi faremo una mini recensione e lui deciderà se gli interessa o meno. e, scritto da Erika Nesvold, che è un'astrofisica statunitense, che nasce da, che è uscito nel 2023, come dicevo, e che nasce da un podcast che si chiama Making New Worlds, che però si è esaurito nel 2018. E praticamente i capitoli del libro corrispondono a puntate del podcast, più o meno. Lo volevamo fare pure noi, se non sbaglio, no? Però non abbiamo trovato un editore in Italia che ce lo faceva fare. Esatto, nessuno. Dovremmo provare con l'editore, però dobbiamo farlo in inglese. Ma anche italiano. Ma io credo che ci sarà un editore italiano interessato alle puntate di Bocca Cica Cosmo. Qualche chat GPT che ce lo traduce, voglio dire. Ormai la traduzione è diventata un'ovvietà. E Erika Nesvold, che oltre a questo podcast ha collaborato anche a una sorta di videogioco molto interessante che si chiama Universe Sandbox, che permette di simulare, che ne so, collisione tra stelle, di farsi il proprio sistema planetario, oppure di provocare un buco nero. Ed è interessante per magari un pubblico di otaku o che sia appassionati di questo genere di questioni, però è sicuramente un passatempo molto interessante. Però la sfida qui è in realtà rispondere alla mia provocazione, il grande libro delle domande. Esatto. Esatto. Espresse ma non risposte. Esatto, diciamo. Erika Nesvold ha cercato in questo libro di sfuggire alla prigione economico-tecnicista del nuovo spazio, ponendosi delle questioni fondamentali che tipicamente vengono o evase oppure hanno delle risposte discutibili, tipo, che ne so, ma dobbiamo veramente andarci nello spazio? E ne abbiamo parlato nella stagione precedente. Sì, con un filosofo, tra l'altro, di cui adesso non ricordo il nome, ma che parla di calcolo del rischio, ti ricordi? Esatto, ma nel libro ci sono anche Ciolkowski, Fyodorov, quindi una serie di nomi. No, il filosofo di cui parlo io è più recente, adesso non mi sovviene. Sì, immaginavo che Fyodorov il calcolo del rischio lo schifasse anche un po'. L'avrebbe schifato se avesse saputo che cos'è. Parliamo ovviamente degli iniziatori della disciplina o della filosofia del cosmismo in questo caso. Esatto, e che è assolutamente propedeutico. Quindi io che sono implacabile su queste cose, mentre invece il professor Kobol vi è venuto incontro. E la parte, per esempio, in cui vengono menzionati i nostri eroi è un paragrafo in cui la ragione, vengono esposte le ragioni mistiche sostanzialmente per andare nello spazio, quindi missioni divine di diverso tipo, anche il destino manifesto in qualche modo degli Stati Uniti è un altro universo mistico che ha una dimensione spaziale, quindi... Guarda, io ti direi questa cosa, tra l'altro tu mi hai detto che è un podcast del 21. Quindi con del 18, quindi con una condizione geopolitica e di nuovo ordine mondiale che si affacciava molto diversa da quella contemporanea. Da questo punto di vista è vecchio, certo. È vecchio, quindi probabilmente anche l'idea egemonica ancora tipicamente statunitense dello spazio oggi, e io poi dopo ne parlerò io un pochino, dovremmo già metterla un po' in discussione, visto le superpotenze che si affacciano oggi. Sì, sicuramente come discorso generale sì, però sono sicuro che molti americani non sarebbero d'accordo e magari sono dei sostenitori dello spazio. Ma tu dici che il protezionismo, ad esempio, funziona anche rispetto allo spazio esterno? Protezionismo da cosa? No, il protezionismo che per esempio Trump propone rispetto alla visione dei democratici, che è meno protezionistica. O isolazionismo forse. Ma uguale, anche. Uguale. Diciamo, tutto ciò che come dire, viene sbandierato per neoliberismo, ma che di liberismo non ha assolutamente nulla, visto che è tipicamente statalista come filosofia, però ammantata di neoliberismo. Beh, Trump l'artefice della missione di ritorno sulla Luna del 2024. 2024 era? Originariamente sì. Esatto, sì. Quindi in qualche modo penso... Beh, Artemis nasce sotto di lui comunque, se non sbaglio. Esatto, quindi. Sì. E quindi sì, in realtà in qualche misura sì. c'è un terreno comune tra l'isolazionismo e l'espansione spaziale. E quindi cosa sembrerebbe una contraddizione. Esatto, ma esatto. Realtà... Ma che cosa? Sì, poi l'isolazionismo da che cosa? Ma la cosa interessante, secondo me, noi quando abbiamo fatto la puntata su UFO UAP, ne abbiamo parlato, abbiamo ipotizzato anche che l'idea di trasformare l'UFO in UAP potesse essere è vero, la costruzione del nemico esterno, esatto, no? Esatto. Tipicamente. Non so se Trump sia alla ricerca di un nemico o di amici, forse il Senato statunitense sicuramente. Beh, sì, diciamo molti dei suoi sostenitori lo sono sicuramente. Lui forse era più alla ricerca di amici nel caso particolare. Non lo so, sei ottimista su questa cosa. Comunque questo libro che diciamo non arriva quindi a delle risposte, questo è il punto Il punto è che la parte analitica in cui vengono analizzate e criticate anche in modo molto lucido una serie di idee, per esempio, un altro problema che viene posto è chi andrà nello spazio, perché la selezione delle persone che andranno nello spazio al momento attuale è molto semplice: ci vanno dei super tecnici o delle persone assolutamente ricchissime. Sai cosa mi fa venire in mente? Scusa, io ti interrompo. Ti ricordi la scena del film Contact in cui devono decidere chi mandare nello spazio? No, ovviamente. Ma, ok. Però c'è, adesso che l'hai evocata, Contact è un gran film, devo dire, tratto da un libro di Sagan che non era però tra l'altro il libro Sagan il film viene è molto, molto citato in questo, per esempio per la questione se andare nello spazio. Sagan è molto, da una parte molto lucido, perché le motivazioni mistiche lui le effettivamente le relega in un ambito mistico-religioso che non necessariamente mette tutti d'accordo, però subito dopo si lancia nel concetto di necessità di una frontiera da superare, come un bisogno dell'umanità che è piuttosto discutibile. Diciamo sì, quantomeno il bisogno dell'umanità statunitense. Io su questo sono d'accordo. Ho bisogno di una serie, un gruppo, un sottogruppo dell'umanità che subisce questo tipo di fascinazione che ha questo bisogno di questa molla per potersi muovere. Però che poi la estende a tutto il resto dell'umanità, così è gratis e la cosa finisce. Beh sì, insomma, Sagan era un catto comunista, forse alcune cose le vedeva, altre no. Comunque, al di là di questo, io credo che il libro non sia un granché, ma il film è veramente di Zemeckis, è veramente molto bello, e c'è questa scena in cui devono a un certo punto decidere qual è l'astronauta che si inserirà nella capsula spaziale ordinata dagli alien, diciamo così, e quindi ne nasce una questione ideologica, teologica, teleologica, insomma, quindi bello, insomma, un bellissimo film da questo punto di vista. Il punto del libro è la creazione di comunità umane extraterrestri, quindi in questo caso la selezione delle persone che partono coincide con il nucleo della società che si va a creare. C'è un discorso molto interessante sul fatto che il nucleo dal quale nasce una società poi ha un'influenza enorme sulla società anche a secoli di distanza. Basti pensare per esempio agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati inizialmente colonizzati da religiosi sostanzialmente e da mercanti, e guardate un po' come sono gli Stati Uniti di oggi, voglio dire. Guarda, no? Il discorso tra l'altro mi ricorda molto quell'analista che abbiamo analizzato, di cui abbiamo parlato nelle vecchie puntate di Bocca Chica, Mirko Kovic, il vero svizzero, quello che sostiene la necessità di creare una ONU interplanetaria. Ti ricordi questa cosa molto interessante. A cui io spesso mi rifaccio. Sarebbe un po' lungo da spiegare, magari ne rifaremo una puntata, perché l'argomento è stra-interessante. Ovviamente però... ne parla anche il libro. Nel paragrafo è di chi è lo spazio, sì. È un altro concetto piuttosto fondamentale. Un'altra cosa interessante che si lega alla prima stagione della trasmissione è un paragrafo in cui vengono analizzate le ragioni per non andare nello spazio, o più precisamente per aspettare prima di andare nello spazio che la società umana sia matura per andarci, il che strano concetto che tra ci riporta per ci cosa? Riporta a un eroe della prima stagione, Posadas, il quale aveva individuato il parametro di maturità di una società per andare nello spazio, che era Il viaggio interplanetario? No, il fatto di avere che la società fosse socialista. Eh beh, ma il viaggio interplanetario derivava esattamente da esatto, quello. La società il superamento delle contraddizioni. Esatto, la società è matura quando è socialista, quindi non siamo maturi. No, allora, Posadas, trotskista argentino, anni 60, personaggio veramente controverso, molto interessante, trotskista in tutti i sensi. Originario di Matera, almeno la famiglia. Sì, come molti molti argentini, insomma, diciamo, italiano. Il nome non me lo ricordo, però insomma, diciamo, neanch'io il nome proprio italiano. Posadas è uno pseudonimo. Esatto, un nome proprio italiano. Beh, sul posadismo informatevi, è una corrente trotskista veramente molto molto interessante, super originale e che incorpora anche tutte le contraddizioni dell'amico Trotsky, insomma, sì. Lì dove l'amico Trotsky vedeva nelle guerre la possibilità anche di una di un ripristino e di una possibilità di rivalsa del proletariato. Ma insomma, se non hai altro da dire su questa cosa, io andrei con un brano musicale. Concluderei dicendo che appunto quello che dicevamo prima, a fronte di un'analisi molto interessante, poi manca una parte propositiva, cioè come determinare, per esempio, chi andrà nello spazio, come farlo per davvero. Questo libro non lo troverete. Ma vogliamo fare che tu ogni puntata ci porti una domanda che esce dal sacro libro delle domande? Esatto, ce ne sono un'infinità in effetti. Perfetto, allora ripetici come si chiama, tanto poi lo scriveremo anche sul Telegram, però esatto. Insomma, dici. Il libro è Off Earth 2023, Erika Nesvold. Beh, perfetto, allora adesso siete sempre all'ascolto di Boca Chica Cosmodrome, siete sempre come dire, introdotti in qualche modo indirettamente all'interno del centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino, da cui stiamo in diretta, stiamo trasmettendo, e adesso un brano musicale. E rieccoci, beh, siamo entrati in maniera un po' radicale. C'è qualcosa che non va bene, col tempo di questo brano, perché è passato da 2 minuti e mezzo a 5 minuti e 10. in una frazione. Beh, un buco nero, che ci sta. Sarà stato, esatto, sarà stato un problema di quei problemi di cui ci parlava tanto. Ma questo Einstein. Brano magico cos'era? Allora, sì, si trattava di Solaroid di Bellbury Poly, che insomma è una band che si rifà alla famosa Ghost Box inglese. Che, di cui abbiamo favolosi. Anche sì, abbiamo parlato anche forse probabilmente in modo abbastanza esteso nella prima edizione, che sono questi, cioè questa etichetta che in qualche modo tenta di riprodurre attraverso varie band quelle che erano i motivi, diciamo le sonorità dei documentari scientifici degli anni 70, insomma mi sembra che ci loro in parte ci riescano. Allora, siamo sempre a Boca Chica Cosmodrome, siamo sempre dentro le mura e nei andri del Forte Prenestino, cioè CSOA romano, e andiamo con quello che è il nostro agitatore preferito in assoluto, sì. Che è Andromalis, che è curatore di una rubrica stabile che si chiama, lo sentirete direttamente dalla sigla a questo punto. Verada Nikto Latu Verada Nikto Latu Verada. Latu Verada Nikto. Oggi ci sballeremo, perché lo stato allucinatorio è l'unica possibilità di lettura del fumetto di cui voglio parlarvi. Cronache di Amebò, scritto, disegnato e delirato da Valo nel 2021. Valo è alla sua prima prova editoriale e addirittura con la casa editrice Eris, la stessa casa editrice che, per intenderci, ha pubblicato Mr. Jesse Jacobs, oggi il più grande di tutti. Con Jacobs, Valo divide lo stesso filtro narrativo ed estetico neopsichedelico, addirittura sapienziale o iniziatico. Ma il cocktail di farmaci cromatici e formali dell'autrice sono apertamente metanfetaminici. Così il suo segno accelerato smeriglia forma e colori e la narrazione diviene un rave party. Il pianeta Amebò è fondamentalmente un rave party, sintetizzato dal professor Trapp. Tutta la prima parte è addirittura scritta e ritmata in rime, assonanze e metrica rap-trap. E qui il mutante peloso Zibaude e la sua amante Wallara, che se si incazza si trasforma in Sailor Serp, il detective rettile Ugo, il teschione Baba, Stortina, il pirgaio e il suo amante abissale, in un meccanismo teatrale di destini incrociati, in scatole cinesi colorate come cubi di Rubik, difendono il loro mondo felice. Che un quartino manga, un quartino videogioco, un quartino ecstasy e un quartino incapacità di accettazione del mondo adulto è messo in pericolo da tre Men in Black, C1, C2 e C3, ossessionati dal senso del possesso della piastrina ameba. Gli abitanti di Amebò preferiranno addirittura essere distrutti dal Deus Ex Machina Paperolla, una gigantesca papera oscillante meccanica a monetine, pur di non cedere la misteriosa piastrina, cioè pur di non tornare ad essere lucidi, perduti, disperati, normali. Così, al professor Trapp, osservando il caleidoscopico spettacolo della distruzione finale, non resterà che ricostruire, ricucinare, risintetizzare un nuovo pianeta Amebò. Insert coin and start. Io credo che ad Andro, tutto sommato, quella nostra definizione del Ghezzi de Noantri gli sia piaciuta e ci calchi un po' la mano, lo ringraziamo. Ma lui che ne dice? Lui lo sa che tu lo dici? Certo, ci ascolta, Andro ci ascolta, anzi lo salutiamo. E sì, dicevo che forse è un po' entrato nella parte, a noi ci piace tantissimo. Insomma, eravamo esilaranti per questa regia che era perfetta, invece Bimbo hai beccato un paio di buchi neri. Ma in realtà non è una paurosi. di regia, è saltato. Vabbè. Ci sono queste strane accelerazioni temporali che fanno finire i brani 30 secondi prima del tempo segnato. Siamo una trasmissione in progress, miglioreremo sicuramente, Bimo, con tutte le sue potremmo alchimie. Anche peggiorare, sì, adesso. Ma no, ma con le tue alchimie informatiche penso, appunto, che non potrebbe andare che meglio. Io adesso raccolgo un gravoso compito, che è quello di fare un po' un menu e un indice di ciò che verrà nelle prossime puntate. Mi sono posto, cerco di farlo molto brevemente senza entrare troppo nel dettaglio. Sarai breve. Cercherò di essere molto breve. Bimo, tu aiutami ovviamente laddove ti vengono delle idee. Vorrei porre dei punti di quello che è stata, quello che è il motivo per cui stiamo facendo questa seconda edizione di Boca Chica Cosmodrome, ovvero le novità che sono state introdotte in due anni e mezzo nella Space Economy rispetto a quello che noi ci dicevamo qualche inverno fa, e che erano i punti. Non ci sono tantissime novità, probabilmente la novità più grossa è l'entrata in scena di nuovi attori. Oggi, in un tempo quando parlavamo, erano gli Stati Uniti e soprattutto la Cina che erano i vettori principali di questa nuova corsa allo spazio. Oggi anche sicuramente l'India e il Giappone diventano degli attori molto importanti. Il Giappone poi c'era nella puntata scorsa, torna spessissimo puntata. Però ne esce uno che è l'Europa, l'ESA, che fino a un paio di anni fa era posizionata in una maniera assolutamente interessante con una serie di progetti, soprattutto con le sue collaborazioni con la Russia, che guarda caso a questo punto venendo meno le collaborazioni con la Russia è praticamente saltato il progetto, quasi tutto il progetto spaziale europeo, che però si è messa alla comunità europea, questa è una notizia che non so se tu lo sai, si è messa a legiferare, ci saranno delle leggi nuove che dovranno riguardare tutti i paesi europei per la costruzione di un mercato spaziale. Vogliono riprodurre il quello che abbiamo visto negli Stati Uniti, sostanzialmente. Sì, chissà se mai si riuscirà a fare questa cosa, visto che insomma mi pare che ultimamente l'Europa si getta un po' a cuor leggero nelle questioni senza valutarle tante. Che possiamo dire? Possiamo dire che quindi forse si sta proponendo, con l'entrata in scena, appunto, dicevamo, soprattutto di India e Giappone, con già Stati Uniti e Cina, l'uscita dell'Europa, un sistema multipolare della conquista dello spazio? Ah, sicuramente. Anche perché la Cina si porta dietro la Russia, quindi diciamo sono un partner comune, mentre gli Stati Uniti si portano dietro il Canada, diciamo l'ESA anche e il Giappone. Sì, si porta dietro tutto l'eterogeneo gruppo del progetto Artemis. Esatto, progetto Artemis su cui adesso arriveremo, perché poi insomma è forse... Artemis, chi lo sa? Chissà, non lo so. Chissà, ormai gli accenti sono diventati un incubo. Questa sera siamo relativistici sulle pronunce e sugli accenti. E saprete poi perché. Beh, allora, qualcosa l'abbiamo già detto nella primissima puntata, perché era in coincidenza con la partenza di Starship 3, addirittura. Il razzo alto 120 metri di SpaceX, quindi di Elon Musk, che in realtà sarà il razzo deputato a portare gli Stati Uniti e i loro partner sulla superficie della Luna fisicamente. Quindi gli astronauti, tutto ciò è previsto tra il 34 e il 35. Vedremo, sì, perché la data si sposta continuamente. Esatto. Però sempre negli Stati Uniti esiste anche un altro, forse più importante, corpo spaziale, che è quello del Pentagono. Quello del Pentagono negli ultimi 10-15 anni è diventato uno spazio spaziale, un contesto spaziale forse più importante di quello della NASA per certi punti di vista, che si occupa soprattutto dell'orbita bassa, quindi della sorveglianza. Satelliti. Che è un'altra invenzione di Trump, Space Corps. Space Force, nasce sotto la sua giurisdizione. Poi, questo, insomma, Trump, che sia, questo Trump praticamente è Trump. Un alieno, chi sarà? Negli Stati Uniti poi, oltre a Elon Musk, c'è Jeff Bezos, che ha avuto degli appalti importantissimi, soprattutto sempre sulla Luna, per quello che riguarda, intanto lancerà i suoi satelliti Amazon, ma poi si occuperà soprattutto della logistica sulla Luna, quindi stanno sviluppando moduli abitativi. Bezos riesce ad avere appalti senza avere nulla per le mani, sempre con dei bellissimi progetti, ma funzionano, quindi. C'è stata una notizia ultimamente, qualche giorno fa, la NASA, attraverso il Perseverance, se non sbaglio, quindi diciamo la missione che in questo momento, il suo robot che in questo momento sta ancora su Marte operativo, e avrebbe estratto dall'atmosfera marziana 10 grammi di ossigeno respirabile. Questa è una notizia incredibile, sì, per certi versi, perché sì, questo significa che uno degli elementi principali, l'ossigeno, lo potremmo trovare in loco, su Marte, ovviamente sulla Luna no, ma su Marte sì, e questo avvicina probabilmente di parecchi parsec quello che è il nostro passaggio all'essere una società multiplanetaria. Io penso, tu che dici, Bimo? No, io sono composadas. Non siamo maturi. Ok, no. Su questo hai ragione, ma l'andremo a conquistare e a porre coloni, a fare i colonialisti anche su Marte e sulla Luna. Quindi sulla Luna essenzialmente il prossimo grande obiettivo è quello lunare. Il lunare l'abbiamo detto per gli Stati Uniti 34-35, mentre per il consorzio cinese e russo, beh, le date sono meno precise, però la Cina sta costruendo intanto la sua stazione orbitante. Assolutamente, la Cina è il contrario di Bezos. Eh sì, quello che dice fa e prima di farlo ha già messo in orbita il 50% delle cose, esatto, che dovrebbe essere pronta brevemente, se non sbaglio, per il 29, forse mi sto confondendo. Onestamente non lo so. Ci sono meno, sì, l'ISS dovrà finire il 29, sicuramente l'Orbital Reef, che invece è la stazione orbitante in cui ci verranno messi i moduli abitativi di Bezos, dovrà essere pronta per il 30, proprio per questa staffetta. E poi abbiamo detto tra 34 e 35 Artemis, con l'idea di portare proprio l'uomo, di nuovo gli esseri umani, sulla Luna. Perché poi in realtà le stazioni spaziali commerciali, in modo assolutamente coerente con la mercatizzazione dello spazio, quindi la costruzione di una concorrenza anche, potrebbero essere più di una. Oltretutto, allora sì, tra l'altro gli Stati Uniti proprio di recente, nel 23 a febbraio, hanno mandato di nuovo la loro prima sonda dopo quasi 40 anni, quasi 50 anni che non mandavano nulla sulla Luna, l'Odysseus, no? Che è questa sonda statunitense che però non si è schiantata. Non si è schiantata, quindi no, niente. Continuano a essere bravini in questa cosa. C'è in costruzione, almeno in progetto, come prima operazione di Artemis, il Lunar Gateway, la base orbitante intorno alla Luna. Però i cinesi stanno fregando tutti i punti di Lagrange, gli importantissimi punti di Lagrange, agli Stati Uniti, che li stanno facendo arrabbiare moltissimo da questo punto di vista. I punti di Lagrange sono dei punti particolari nello spazio, perché in realtà costituiscono, per qualsiasi cosa viene messa nello spazio, un luogo privilegiato, perché sono posti esattamente a metà strada tra la gravitazione di altri due corpi. Sì, sono dei punti di equilibrio. Esatto, quindi abbiamo Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, se non sbaglio il 2 e il 3 sono già stati occupati dalla Cina, e questo dà un vantaggio geopolitico e strategico alla Cina sulle comunicazioni, soprattutto anche rispetto agli Stati Uniti. Sì. La Cina ha un programma spaziale sicuramente meno così spiattellato rispetto ad Artemis, che fa i fuochi d'artificio e ai suoi imprenditori, ma in realtà, come dicevamo prima, i cinesi da questo punto di vista stanno un po' più in silenzio e producono tanto, quindi ci potremmo aspettare delle grandissime sorprese anche dall'India, e grandissime sorprese anche dal Giappone, come dicevi tu. Insomma, il Giappone ancora non è arrivato botte su Marte da Orbi, quindi. Sì, non è ancora arrivato su Marte, ma si è arrivato sulla Luna con vari robot, no? Anche sulla parte oscura. Quindi insomma anche la Cina, insomma, quindi io direi che i punti essenziali rimangono, diciamo, per il Pentagono e comunque per l'attuale programma spaziale, l'avviluppare completamente quella che è il pianeta Terra con i satelliti. Adesso la Cina ne dovrà spedire, se non sbaglio, 9.000, una cosa del genere, insomma. Sì, sarà veramente un gli autoscontri, esatto, perché i lanciatori, tra l'altro i lanciatori Starship, ne riusciranno a mettere in orbita ogni volta 200 a volta, insomma, cioè cosa per Starlink. Tra l'altro gli Stati Uniti, oltre a Starlink, stanno producendo un altro Starship, se non sbaglio, un altro programma satellitare curato dal Pentagono. E poi ci sono l'equivalente Bezos. E poi c'è di Amazon, l'equivalente. Quindi quanti hanno? 40.000 satelliti nuovi, sì, in orbita. Qui diciamo la parte dei satelliti, la parte dell'esplorazione, dell'occupazione, colonizzazione, che è quella che a noi interessa di più, credo, no? Che dici? Beh, in realtà anche l'occupazione dello spazio appena intorno alla Terra è interessante, perché una volta che lo spazio è occupato, nel senso che è in qualche modo proprietà di chi l'ha occupato. Beh, e poi lo spazio occupato aumenta, come dicevamo, a un ritmo forsennato. Sì, no, tra l'altro le basi orbitanti di cui uno potrebbe chiedersi ma che cosa servono, in realtà sono le avanguardie, esattamente le avanguardie delle fabbriche terrestri, perché lì si sperimentano materiali, tecniche che non possono essere sperimentate direttamente sul pianeta Terra, e da lì, grazie ai processi di spin-off, ricadono nell'economia terrestre e noi li utilizziamo quotidianamente. Quindi ogni base, diciamo con ogni stazione orbitante, è in realtà l'epicentro e anche l'avanguardia del capitalismo neoliberista o ambisce ad esserlo. Beh, io direi che lo è. Non a caso i cinesi se ne stanno, diciamo, proprio per equiparare quelli che sono i ritmi di produzione e innovazione europei e statunitensi, stanno costruendo la propria base per fare. Beh, no, quella sicuramente, ma mi riferivo più che altro alla proliferazione di queste stazioni orbitanti, che non saranno più una cinese, ma no, potrebbero diventare un numero arbitrario, e le dinamiche che lo determineranno sono dinamiche di mercato. Assolutamente, tra l'altro l'idea illuministica espressa dall'ISS, quella tutti insieme d'amore e d'accordo, è tramontata. Finisce. Diciamo questa cosa per chiudere questo aspetto, l'ESA, come anche dicevamo, se non è tutti insieme tranne i cinesi e i russi, ma noi russi inizialmente ci stavano, ci sono ancora, è giusto, è vero, ci sono, è partita una missione proprio ultimamente. Sì. Diciamo l'ultimissima cosa: l'Italia e l'ESA stanno messi malissimo da questo punto di vista, lo dicevamo prima. L'Italia, sentivo una trasmissione qualche giorno fa, addirittura, cioè, no, l'Italia, l'ESA non ha proprio lanciatori. In questo momento no. L'Ariane e l'Ariane 6 è ancora al palo. Esatto, quindi con non so quanti anni di ritardo, tra l'altro. 5 anni di ritardo, e non si vede la luce. Non avere lanciatori in questo momento, proprio perché dicevamo questo rapporto con la Russia è stato bruscamente interrotto, porta l'ESA a parecchie posizioni indietro rispetto a quelle che erano le posizioni che aveva assunto, soprattutto quando parlavamo per la prima volta di space economy da questi microfoni un paio di anni fa. Insomma, quello è un momento molto importante. Va bene, io andrei con un altro brano a cui lascio introdurre te, anzi lo mandiamo e poi Bimo ce ne parla. sempre Boca Chica Cosmodrome, sempre dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino e dalla sua radio, Radio Forte. Vi ricordiamo che abbiamo un Telegram come Boca Chica Cosmodrome e che trovate tutte le vecchie puntate e le nuove, oltre che nelle dirette, anche nei podcast, sempre su forteprenestino.net. Questo Bimo, non so se tu te lo ricordi, questo è Moggi, questo Space Cowboy, questo pezzo che abbiamo appena sentito. Era familiare, ma non il nome non me lo ricordavo. No, però... ma aspetta, ma sotto Moggi tu sai che si nascondeva qualcun altro, Piero Umiliani. Si tratta del grande Piero Umiliani, pseudonimo Moggi, ha fatto tutta una serie di brani spaziali molto interessanti. Questo era Space Cowboy. Che poi quando si dice Moggi ormai si visualizza un altro Moggi. Guarda, tra l'altro io su questo mi ero preparato delle cose, forse le dico la prossima volta, però avrete notato, avrete sentito che questo appunto poi Space Cowboy, c'è tutta una tradizione di film di fantascienza, di un filone degli anni 60 di film di fantascienza italiani, che in realtà mutuano tanto dallo spaghetti western, che all'epoca andava molto di moda, e le musiche stesse hanno al proprio interno dei motivi che ritornano morriconiani, però declinati, declinati con strumenti che sono invece più degli strumenti elettronici per la fantascienza. Insomma, molto interessante, magari diremo qualche cosa la prossima volta. E io a questo punto introduco la nostra rubrichina, la posta del cuore, che non ha sigla. Io questa cosa, che ci sono due rubrichine che mi sa che abbiamo saltato la tua rubrichina, caro Bimo. Ci torniamo, oggi una serie di problemi tecnici qui ha smesso di funzionare inauditi. La regia tecnologica, esatto, se no andremo un pochino più lunghi, adesso vediamo. E quindi la posta del cuore con Ray Max. Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Boca Chica Cosmodrome. Questa è un punto interrogativo. Allora, abbiamo saltato una puntata la settimana scorsa e contemporaneamente sono arrivate parecchie domande nella chat di Telegram, giusto Cobo? Vogliamo ricordare il nome del Telegram? Sì, ma è molto semplice, Boca Chica Cosmodrome. Sì, ma dai. E quindi io partirei con due domande. Recuperiamo una della settimana scorsa. La prima domanda è arrivata da un ascoltatore di Roma, che però desidera rimanere anonimo, che ha gioito e ha esaltato, ha detto: evviva, avete visto le news su Slim, che ricordiamo è lo Smart Lander for Investigating Moon, il lander giapponese, e chiedeva di parlarne. E suggeriva tra l'altro in futuro di parlare di esperienze contemporanee di esplorazioni di paesi e attori dei quali si parla di meno, in particolare l'Africa. Io non so se su Slim si vuole parlare. Slim è in scaletta. Clamorosamente meraviglioso. Allora, Slim è in scaletta, mentre invece per quello che riguarda i paesi emergenti anche sono in scaletta. Quindi ne faremo ne faremo due puntate. Sarà contentissimo questo ascoltatore anonimo che aveva posto in realtà una domanda un po' matrioska, che ne conteneva tre o quattro. Però allora a questo punto io introdurrei una grossa novità di questa trasmissione, perché per la prima volta abbiamo un ospite, un ascoltatore in studio con noi, perché si è posto la domanda di: ma davvero si dice Cosmodrome? Noi siamo così sicuri che si dica Cosmodrome, perché secondo questa nostra ascoltatrice, che ho verificato avere delle perfette credenziali russofone, si direbbe in realtà Cosmodrome. Quindi vi presento Ginevra Anastasia, che è italo-russa. Aspetta, facciamo una cosa, dillo lentamente, anche mettendoci davanti Boca Chica, perché così si capisce. Boca Chica non siamo ancora certi, dovremmo fare arrivare una persona Boca Chica è strano. Comunque ci procureremo anche un interprete messicana. Però, io un'idea ce l'avrei, però non penso possa entrare in questo stabile. Ok, va bene. Allora, riproviamo. Vediamo la terza. Boca Chica Cosmodrome. Allora, grazie. Grazie. Allora, io devo dire che noi ci siamo affidati a Google Translator che diceva Cosmodrome, quindi va bene. E no, adesso quindi vi do si sbagliava, ovviamente. Ma perché, va bene, quello ovviamente. Adesso io mi piace molto Cosmodrome, tra l'altro, Cosmodrome. Però ti dico che onestamente continueremo con Cosmodrome perché non può. Beh, ci proviamo. Però una cosa cambierà. Sapremo che è sbagliato. Sì. Anche perché noi pure che ci andiamo a fidare di Google, pure noi, insomma, cioè, vabbè, comunque, Ginevra Anastasia, proviamo a capire perché si dice Cosmodrome. Innanzitutto, tu parli russo. Ebbene sì. Sei figlia e nipote di sovieti. Io sono figlia e nipote di sovieti o sovietici, non so come si dica ad oggi, e ho chiesto conferma alla mia famiglia su questa pronuncia, perché di me stessa mi fido poco, ed è Cosmodrome. Tu hai cosmonauti in famiglia? No, purtroppo no, però ho figure politicamente interessanti e compromettenti. E mi sembra di capire che la tua famiglia in Russia, che è tuttora in Russia, tu sei stata lì da poco, deriva da una regione, questa è una notizia per Kobol meravigliosa, dove vivono i tuoi nonni? Sì, i miei nonni vivono nelle zone di Fyodorov e quindi sicuramente sono stati cosmonauticamente contaminati, cosmicamente, cosmisticamente. Cosa ti ha portato a interessarti di questi temi, a parte la vicinanza spirituale con Fyodorov, non è poco? Infatti non è poco. Sicuramente il fatto, la contaminazio tra le mie origini e il cosmismo è forte. E io mi interrogo molto sul ruolo del divino oggi, che vuol dire tutto e niente, e mi chiedo spesso il ruolo del divino nel cosmismo, quale sia e come possa essere fondamentale. Nel cosmismo è fondamentale il ruolo del divino. Io so poco. No, allora sì, sicuramente, però in realtà esiste anche tutta una corrente laica, super laica, diciamo, sì. Soprattutto i biocosmisti, che in realtà avevano molto poco a che fare con la corrente più mistica. Però ha introdotto una serie di temi che a questo punto, secondo me, Bimo, necessitano di una puntata speciale. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro la nostra gentile ospite Ginevra Anastasia è un'antropologa, mi sembra di capire che stia preparando anche abbia delle idee di anche un po' ispirate, diciamo, a questa nostra buga cica Cosmodrome. Oggi, allora, quando lo diciamo noi lo diciamo giusto, quando lo dice la sigla lo dice sbagliato, ma noi sappiamo che è sbagliato. Ok. Vabbè, la consapevolezza e l'autocoscienza e la coscienza sono le chiavi più importanti. Esatto, sono il primo passo verso un qualcosa. Eh sì, comunque io purtroppo sono sia antropologa che teatrante, quindi il divino e il sacro sono temi su cui mi interrogo spesso. Non che io dia per scontato la loro presenza nel cosmo, ma se si possono unire le due questioni sono contenta. Quindi spero di imparare molto da voi. Sul divino penso che... Sul divino siamo scarsissimi. Esatto, siamo due schiapponi. Esatto. Però sì, ti consigliamo, come consigliamo a tutti, di risentirti, soprattutto, diciamo, quest'anno, come dicevamo, siamo più alle grotti, mentre invece nella prima edizione eravamo più profondi, siamo molto cambiati, invecchiando. Sicuramente hai introdotto una serie di temi che dovremmo comunque, secondo me, ripercorrere anche in una chiave, Bimo, un po' meno esaustiva di quella che abbiamo intrapreso nella prima stagione, ma che insomma comunque invece ci riporta evidentemente l'esigenza di ripercorrere alcuni sentieri interrotti. Questa cosa mi sembra molto importante. Io insomma ringrazio. Allora, un'ultima cosa da dire. Un messaggio. Ah, c'è una greco. Vuole l'adesivo. È appena stato dato l'adesivo. Va bene, grazie Ray. Abbiamo consegnato un adesivo. Abbiamo consegnato finalmente un adesivo. Qualche altro adesivo dovremmo averlo, esatto. Però se le volete ci dovete venire a trovare qua. Esatto. Io, Bimo, facendo un salto pirotecnico di questa scaletta, introdurrei il Ma che schianto, cioè la tua rubrica in cui ci parlerai. Esatto, di Slim, guarda un po', clamorosamente. E non era preparata, signori miei, è stata una coincidenza, perché tra l'altro Slim in teoria nella nostra rubrica non dovrebbe comparire per almeno due ragioni. Primo, non scusami, lo ricordiamo, è la rubrica sugli schianti avvenuti da mezzi spaziali. Che di solito privati, questo era l'astrocapitalismo, il patto, che si schianta sulla Luna. In realtà Slim è una missione parzialmente privata, ma comunque è della JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, quindi non dovrebbe comparire in questa rubrica. Per di più non si è schiantato, almeno è atterrato, non è atterrato esattamente come era previsto, nel senso che è atterrato semi-orizzontale invece che verticale, ma non si è schiantato, e quindi questa sarebbe un'ulteriore ragione per non parlarne. Ma in questo caso è quello che Slim ha portato sulla Luna che invece lo fa comparire in questa trasmissione, che non sono i tardigrada di cui parlavamo qualche trasmissione fa. Slim non essendo una missione privata è insolitamente rigoroso nel suo carico, non ci sono chincaglierie, collanine, unghie, capelli, niente questa volta, ma ci sono due robot e quello che ci interessa in particolare è il robot Lev 2, sono Lev 1 e Lev 2. Lev 1 è un piccolo robot che si muove saltando sostanzialmente sulla superficie lunare, e Lev 2 invece è quello che nella scorsa puntata chiamavamo Soraku, cioè è il robottino Tommy che si era schiantato nel suo primo tentativo di raggiungere la superficie lunare, e sempre quella volta in una missione privata, quindi che a pieno titolo è comparsa in questa rubrica. Soraku è sulla Luna, funziona e si muove, non salta, si muove, striscia quasi, è una sorta di insettone, se vogliamo, che pedala nella regolite lunare, nuota nelle regolite lunare, quindi in realtà questa è un lieto fine, perché malgrado il satellite sia atterrato orizzontalmente e quindi i pannelli solari non possano lavorare come dovrebbero, sostanzialmente funziona. È di recente sopravvissuto, penso, alla sua seconda notte lunare, e quindi tutto sommato appunto Soraku sta felicemente prosperando sulla Luna. Senti, io l'altra volta ti avevo fatto i complimenti perché la tua rubrica Che schianto in realtà era molto riottosa, perché parlava solo esclusivamente di schianti di società capitalistiche private nello spazio. Tu mi hai subito fatto ricredere, perché hai subito parlato di un piccolo successo. Il rigore non mi appartiene. Va bene, allora mandiamo un brano per la vergogna. Thank you. E siamo sempre a Bocca Cica Cosmodrom. E beh, siamo felici di esserlo, abbiamo capito tante cose dal punto di vista linguistico. Bimo, io direi, intanto, abbiamo avuto grandi problemi di regia. Sì, qui ci sono dei fenomeni paranormali. Che dovrò però un po' io voglio, investigare. Guarda, voglio spezzare una lancia in tuo favore, perché qui chiaramente chi ci segue non lo può sapere, ma tu ti hai autocostruito un lettore speciale che fa cose speciali, tra cui anche fallire. Esatto, sì, è fatto apposta, adesso io non volevo dirlo, ma in realtà è fatto apposta. È un po' tipo che schianto. Esatto. Tra qualche anno faranno che schiappe, esatto. E ci metteranno anche la nostra. Siamo sempre a Bocca Cica Cosmodrom e siamo sempre al CSOA Forte Prenestino di Roma, e Radio Forte. E, Bimo, prima di lasciarci, tu avevi una curiosità a raccontarci, di quelle curiosità gustose che sono tipo... No, che fai con la faccia? non te lo ricordi, ma sì, aspetta. Siamo in... Dai, raccontaci di questa cosa e poi salutiamo con la buonanotte i nostri ascoltatori. Sì, è un'idea veramente di cui non si può fare a meno, e ci viene a chiedersi come abbiamo fatto finora, di un valido imprenditore scozzese che ha avuto la seguente idea. Supponiamo che voi stiate partecipando a un evento o un momento importante della vostra vita in un punto qualsiasi del globo. Voi potete, pagando una cifra contenuta, adesso non ricordo quanto sia, con una validissima applicazione da telefono, avere una fotografia satellitare del posto dove state. Beh, vabbè, insomma, cioè, sì. No, guarda, cioè, no, effettivamente anche sti cazzi. Però anche in effetti. No, però la questione è che in realtà rientra, secondo me, è un aneddoto interessante, perché rientra esattamente in quella che è la politica di sviluppo delle startup di cui parlavamo la volta scorsa. Esatto, allo spazio. Esatto, quando noi diciamo che il mondo del capitalismo spaziale è anche popolato non sa più che inventarsi. Da strani personaggi con idee meravigliose come questa, in realtà non stiamo scherzando, perché ce ne sono anche degli altri che con i quali vi delizieremo probabilmente nelle prossime puntate. Allora, io l'ingrato compito di fare un riassunto rapido. Avete sentito Bocca Cica Cosmodrom nella sua seconda edizione, nella sua terza puntata, sempre dal CSOA Forte Prenestino di Roma, da Radio Forte, sulle frequenze di Radio Forte, sempre dentro le mura del centro sociale, cui io vi invito, ogni giovedì noi siamo in diretta, se ci venite a trovare vi regaliamo anche un adesivo. Che ditecelo prima, abbiamo, perché sennò noi non ce lo portiamo. Se no non ci portiamo gli adesivi, che non ci viene a trovare nessuno. Ci pesano. Ci potete risentire sicuramente sul sito forteprenestino.net, nella slot della radio, quindi nella slot di Bocca Cica Cosmodrom. E poi Telegram su cui noi interagiamo e su cui Ray Max raccoglie tutti gli interventi e poi ce li porta qui, ma su cui insomma noi ci intratteniamo anche con i nostri ascoltatori e scambiamo delle idee. Mi scuso ancora, come all'inizio della puntata con Francesco, perché non abbiamo fornito la biografia di cui avevamo parlato, ma lo facciamo Bimo, no? Lo facciamo in questi giorni, quindi insomma un paio di giorni dateceli, ma poi lo faremo. E a questo punto io vi sto per lasciare, intanto grazie a tutti gli intervenuti, alla regia c'era Bimo e Cobol, e praticamente vi stiamo per lasciare con un brano che io amo moltissimo, di cui ancora non abbiamo detto niente, ma molti tra voi sicuramente più attempati lo riconosceranno. E a questo punto giovedì prossimo di nuovo con Bocca Cica Cosmodrom, che è la trasmissione che si occupa dell'espansione del capitalismo nello spazio. Attenti all'accento. Buonanotte.